diciamo che dopo un'articolata inchiesta che ho cercato di sviluppare tramite sia i giornali che interviste a operai e sindacalisti del nord, ho ottenuto dei dati che poi ho raccolto in questo articolo di cui parlavi, in cui sostanzialmente si dimostra una esitazione netta alla chiusura delle attività anche non essenziali sin dall'inizio di questa storia, protratta poi anche dopo il decreto del 22 marzo con cui quelle attività dovevano essere fermate. Complice di questa situazione sicuramente Confindustria, le cui pressioni non sono mai mancate sin dall'inizio, ma chiaramente anche il governo. Qualche dato dall'inizio ad oggi: ad esempio, quando nei comuni di Alzaro Lombardo e di Nembro già verso metà febbraio si venne a contatto con dei casi di Covid, poi accertati tra il 21 e il 25 febbraio, mentre a Codogno e a Euganeo si chiudeva con i militari la circolazione, insomma si dichiarava la zona rossa, ad Alzano Lombardo e Nembro in provincia di Bergamo ciò non succedeva, nonostante le indicazioni del comitato, insomma, dell'Istituto Superiore di Sanità, che chiedevano la zona rossa in questi comuni. Perché nel bergamasco la zona rossa non veniva dichiarata? Perché c'erano questi due comuni, a differenza di Codogno e Euganeo, hanno 376 aziende, 3.700 dipendenti e fatturano complessivamente 680 milioni l'anno di fatturato. E insomma, proprio in questo periodo, mentre aumentavano i contagi al Zano Lombardo, Nembro e a Bergamo stesso, quando il 28 febbraio si contavano già 103 contagi, la Confindustria usciva con un video, forse è diventato, lo conosciamo un po' tutti, no? È diventato famoso, Bergamo is running, cioè Bergamo continua, sta andando avanti, non ci sono contagi, cioè Confindustria di Bergamo cercava di rassicurare i propri acquirenti, ma veniamo, cioè i propri partner commerciali internazionali. Ma veniamo al 22 marzo dunque. A Zano Lombardo, abbiamo detto, e Nembro, a Bergamo è stata proclamata la zona rossa, quando invece a Codogno e Euganeo era già insomma dichiarata. Vediamo al 22 marzo, finalmente il governo, con un ritardo estremo, prevede questo decreto con cui bisognerebbe chiudere le attività non essenziali. Nella lista iniziale ci sono molte industrie ritenute essenziali, molti settori ritenuti essenziali che tali non sono, continuano le agitazioni operai, scioperi spontanei iniziati già nelle settimane precedenti, i sindacati, anche i confederali, diciamo, si radicalizzano a tal punto da minacciare scioperi più generalizzati, mentre il sindacato di base USB proclama lo sciopero generale per il 25 marzo. Che cosa succede? Che la lista dei codici Ateco viene cambiata dal governo, quindi diciamo ci sono delle attività non essenziali, la lista di attività non essenziali da chiudere viene allargata, il 25 marzo il decreto diventa operativo e tuttavia sono soltanto pochissime quelle aziende, anche non essenziali, che effettivamente chiudono. Perché? Tra poco vi darò anche qualche dato sui numeri, sulle quantità delle aziende operanti ancora. Perché comunque? Perché in questo decreto si prevedeva la possibilità, tramite autocertificazione presso i prefetti, delle aziende di dichiararsi come produzione non già direttamente essenziale, anche tale, anche questa possibilità c'era, ma anche semplicemente funzionale alla catena essenziale, per cui in senso lato delle aziende che in parte producevano pezzi per catene, per la produzione essenziali, potevano rimanere aperte. Un caso ad esempio di questo scandaloso vuoto normativo del decreto del governo, di cui, attenzione, i sindacati non si sono accorti o accorgendosene non hanno detto niente, ma comunque in virtù di questo scandaloso vuoto normativo, aziende del bergamasco, dove per l'appunto c'erano 4.500 morti in un mese, intanto si è scoperto a fine marzo, come la Tenaris di Dalmine, che è un'acciaieria, produceva in un settore soltanto, che occupava 30 operai, delle bombole per l'ossigeno. grazie a questa produzione che coinvolgeva 30 operai di bombole per l'ossigeno necessario ovviamente alla respirazione insomma assistita, ha tenuto aperto gli stabilimenti, insomma ha tenuto attivi tutti 1300 operai fino agli inizi di aprile. Dalla metà di marzo, dopo i primi contagi e il primo morto, diciamo si è ridotta parzialmente la produzione, ma grosso modo se la Tenaris Dalmine ha aspettato soltanto i primi di aprile, il secondo morto e diversi operai in terapia intensiva per cedere alle richieste e alle pressioni di operai e sindacati e sospendere la produzione, che poi ha riaperto il 20 aprile. In generale, tuttavia, sono oltre 13.000 in Lombardia le richieste di deroga al decreto e quindi le autodichiarazioni delle aziende, sono oltre 11.000 in Veneto, sono all'incirca 1.800 a Bergamo, sono 1.273 nel Piacentino, quindi parliamo di numeri esorbitanti. Queste sono soltanto le aziende che hanno fatto queste richieste, quindi senza considerare le aziende di produzioni che si occupano di produzioni essenziali, che invece le richieste non le hanno proprio inoltrate perché erano per legge, diciamo, per legge potevano continuare a produrre. Quindi si parla di decine di migliaia di casi che, mentre i prefetti esaminavano i casi o comunque non rispondevano, queste aziende hanno continuato a produrre, in molti casi senza mai chiudere, in altri chiudendo molto al di là del 25 marzo, data del decreto, e in altri casi ancora per l'appunto hanno usato sotterfugi di diversa natura che i vuoti normativi del decreto comunque prevedevano. Per esempio, sempre nel Bergamasco, anzi proprio ad Alzano Nembro, dove già da febbraio c'erano i primi casi, diciamo, di Covid, un'azienda che produce pezzi per delle imbarcazioni, in particolare che lavora anche con gli scafi di Luna Rossa, no, per l'America Scap, diciamo, ecco la Persico Group, penso si pronunci, sì. Persico Group, e comunque insomma ha continuato a produrre anche dopo il 25 marzo perché aveva delle produzioni da terminare. Il decreto prevedeva che si continuassero a terminare le produzioni già, i prodotti a cui già si stava lavorando, e ovviamente questi prodotti che sono come pezzi di scafi o automobili o pezzi di aerei eccetera, che sono di più lunga produzione, chiaramente hanno consentito il perpetrarsi della produzione nel tempo, anche quando non essenziale. Quindi sì, senti, scusa se ti interrompo perché appunto la tempistica radiofonica purtroppo è tiranna. Tu citi anche i dati dell'Istat che parlavano di 55,7% dei lavoratori a livello nazionale appunto che si recavano ancora al lavoro, e una percentuale che sale proprio in queste province lombarde, certo, dove si arriva anche a 7 lavoratori su 10, quindi insomma non poco, certo, e quindi un ambito forse dove cercare realmente i contagi invece che nei comportamenti individuali tanto biasimati. Però il tuo articolo contiene anche una seconda parte molto interessante che riguarda le strategie industriali che l'Italia dovrebbe adottare, che non sono ovviamente quelle per cui spinge Confindustria. Certo, allora diciamo che in questo momento in Italia si stanno opponendo due posizioni, quella dell'economista Mariana Mazzucato, che è la consigliera del governo Conte attualmente, è quella che è la visione di uno Stato imprenditore che ora deve investire direttamente nelle imprese, fare determinare anche i settori di investimento, condizionare le imprese nelle quali lo Stato stesso investe e quindi obbligare certe imprese a fare delle scelte gestionali tramite l'investimento di capitale pubblico, delle transitorie nazionalizzazioni parziali delle imprese in crisi. È una visione perfettamente compatibile col liberismo, a cui però Confindustria si oppone lo stesso. È uscito un articolo parlavo recentemente su Confindustria, in cui si criticava questa concezione dicendo che le imprese non dovessero essere affatto condizionate dallo Stato, ma essere libere di investire i soldi pubblici come vogliono. È chiaro che questa cosa non è possibile, perché nel 2008 una simile liberalizzazione sfrenata dei prestiti e degli investimenti pubblici alle imprese ha prodotto soltanto speculazione, ulteriore concentrazione di capitali nei grandi gruppi e quindi acquisizioni, fusioni, crisi delle piccole e medie imprese, incapacità di creare spontaneamente un progetto industriale per l'Italia. Questo è il punto, che da un lato abbiamo uno Stato che Confindustria dice incapace di progettare, di fare progettazione industriale, e in parte è vero. Dall'altro abbiamo la visione dell'anarchia del mercato, della libertà d'impresa, che basata sulla concorrenza non ha mai prodotto, neanche dopo il 2008, ma mai nella storia, una capacità, un piano complessivo, un progetto industriale per il paese. È chiaro, in questa dialettica qual è la terza via, la soluzione possibile? Innanzitutto quella di sostituirsi alle imprese private come Stato e iniziare effettivamente un percorso, la costituzione di un'azienda statale, di un'agenzia statale che si occupi di nazionalizzare e riconvertire nei settori che oggi sono essenziali e anche in cui c'è soprattutto spazio di crescita e di investimento, che sono quelle della riconversione ecologica, delle energie alternative, che in una fase di crisi del petrolio e delle energie basate sul carbone sono le uniche che tengono ancora e che non sono in crisi anche nelle quotazioni in borsa. In secondo luogo, questa crisi sanitaria ce la porteremo avanti, diciamo, per mesi, se non anche, diciamo, per nei prossimi anni, perché c'è sempre il rischio che questo virus, insomma, o altri nuovi virus, insomma, ritornino a colpire la popolazione, e quindi diventa urgente e necessario l'investimento nella sanità, ma non solo, nelle infrastrutture, nel personale, dopo i tagli di 30 miliardi di tagli che sono stati effettuati in questi anni nella sanità pubblica italiana, ma comunque a livello industriale bisogna chiaramente 37 miliardi di euro di tagli, ma bisogna investire soprattutto, ecco, in questi prodotti che ora nell'area euro-mediterranea hanno uno spazio di mercato, come sta facendo Macron a livello proprio centralizzato di investimenti statali in che cosa? Produzione di caschi respiratori, di PI, cioè dispositivi di protezione individuale, cioè banalmente le mascherine e quant'altro, oppure per l'appunto di tutte le attrezzature necessarie alle terapie intensive, eccetera. Ricordiamoci che l'Italia è andata in crisi per 4.500 terapie intensive nel tetto apicale, mentre la Germania ha 28.000 posti base di terapia intensiva in Germania, perché è chiaramente un paese imperialista al cuore dell'Unione Europea, che riesce anche a sostenere un tenore di investimento maggiore proprio ai danni degli altri paesi. Quindi è chiaro che per investire nella sanità nazionale, con o senza l'epidemia, è chiaro che la nostra sanità pubblica è uno stato devastante, ma bisogna anche produrre quelle strumentazioni adeguate e anche produrle anche per i mercati, diciamo, euro-mediterranei, che sicuramente hanno una domanda. E poi infine c'è il settore agroalimentare, cioè lo Stato ora bisogna ripensare il nostro modo di produzione agricola degli allevamenti, perché diciamo il monopolio delle multinazionali sui terreni, sugli allevamenti, eccetera, è una delle cause della distruzione della biodiversità, che è all'origine del nascere di queste epidemie, non solo del coronavirus, ma ricordiamo che ci sono state, diciamo, oltre una decina di epidemie negli ultimi 30-40 anni di coronavirus o virus comunque di origine animale che sono passati all'uomo. Questo accade anche proprio per il modo in cui oggi facciamo allevamenti intensivi, distruggiamo la biodiversità, sfruttiamo la terra e quant'altro, ma non solo, perché in queste situazioni di epidemia anche, diciamo, si pongono anche problemi di reperimento delle risorse fondamentali, perché chiaramente si hanno problemi a continuare a lavorare la terra, perché la nostra agricoltura in Francia, in Italia, ma non solo, si basa sullo sfruttamento a nero di manodopera emigrata o comunque stagionale che viene spesso dall'est Europa, per non parlare degli immigranti africani che sono stabili e lavorano stabilmente a nero nelle nostre campagne, e quindi nell'impossibilità di reperire questa manodopera c'è anche un rallentamento e una difficoltà dell'economia francese e italiana, e non a caso i governi italiano e francese stanno cercando di far venire manodopera dall'est Europa per lavorare la terra. Ma non solo, perché i circuiti internazionali di scambio comunque sono rallentati, oltre che in generale la produzione, in fondo un rallentamento c'è, e non è così drammatico come dice Confindustria per i profitti privati, perché la ragione, diciamo, vera e propria della crisi capitalistica non è il lockdown, che per l'appunto è stato assai parziale e ridotto, ma è per l'appunto sono delle cause strutturali dell'economia, del capitalismo, che oggi non è più in grado di autogestirsi insomma, e di sostenere questi livelli di produzione e quant'altro. Per cui insomma ci sono dei settori strategici in cui lo Stato dovrebbe investire, e oltre che investire in questi settori strategici anche diciamo intervenire per la nazionalizzazione e la riconversione di delle tantissime aziende in crisi che in Italia ci sono ormai da anni, che si accumulano da anni in Italia. Ci sono ben 160 crisi aziendali prima dell'epidemia, tra cui grandi stabilimenti come la Whirlpool di Napoli, che delocalizzerà a ottobre, come la ex Embraco di Riva di Chieri, come la Blutech Termini Merese, in cui diciamo il paradigma, il modello di gestione dal PD alla Lega dei 5 Stelle è stato sempre lo stesso. Come si affrontano queste delocalizzazioni o queste crisi aziendali in genere che coinvolgono 120.000 lavoratori in Italia? Si affrontano in modo con un modello neoliberale, cioè si mette in Vitalia, che questa agenzia presieduta, diretta da Arcuri, ora il commissario straordinario per il governo, a mettere dei soldi, a cercare degli investitori privati, a fare da mediatore per creare una cordata di investitori che rileva gli stabilimenti in crisi, tenta di fare riconversioni, ristrutturazioni per produrre poi prodotti che devono conquistarsi fette di mercato che nei fatti non esistono. Le riconversioni sono qualcosa di assolutamente rischiosissimo, sia perché non si ha già una fetta di mercato in cui inserirsi, ma bisogna conquistarla, sia perché sono operazioni altamente speculative, e nei fatti in Italia abbiamo numerosi casi, ma ce ne sono anche in Francia, perché il mercato funziona, il capitalismo, le leggi del capitalismo e del mercato funzionano così ovunque. Ci sono numerosi casi di riconversione che si sono rivelate delle truffe, in cui Invitalia ha dato soldi a cordate di imprenditori o ad aziende fantasma, soldi che sono evasi in paradisi fiscali, e questi imprenditori hanno dichiarato fallimento dopo aver licenziato già una parte degli operai e aver fatto smantellare alle aziende uscenti gli stabilimenti, e insomma aver mantenuto in mano la situazione per un anno o due senza mai veramente reindustrializzare il sito. Si è dichiarato fallimento, si è semplicemente fuggito da questo investimento, attraverso questa falsa riconversione. È successo alla Termini Merese, alla Blutech, è successo alla Whirlpool di Amiens nel nord della Francia, è successo a Riva di Chieri alla ex Embraco, sempre appartenente al gruppo Whirlpool. Doveva succedere a Napoli, ma fortunatamente si è evitato, perché si è scoperto in tempo l'inganno. Ovvero, più in concreto, che cosa sono queste riconversioni truffe, che sono una realtà che i governi conoscono e tuttavia insomma non evitano, perché non vogliono mettere in discussione il modello di politica economica dell'Unione Europea e in generale dell'Occidente capitalistico? Che cosa sono? Sono per esempio il caso concreto, ecco, ex Embraco. La Whirlpool dà dei soldi a un acquirente per rilevare lo stabilimento, per fare un piano di riconversione. Arriva la Ventures, che è un'azienda con capitale israeliano, cinese, italiano, tutto mischiato. Questa Ventures ha una sede diciamo, in un paradiso fiscale, prende i soldi della Whirlpool sulla base di un progetto di conversione su un prodotto ad alta tecnologia che non ha un mercato, ad esempio robot che puliscono automaticamente i pannelli solari. Vabbè, Invitalia dice anche che questa cosa è credibile. Inizia questo progetto, i soldi della Whirlpool, la Whirlpool dà 10 o 20 milioni alla Ventures, scompaiono. I dirigenti della Ventures o comunque quelli che appaiono come dirigenti sulla carta, si scopre che hanno avuto consulenze o comunque stipendi in questi due anni di avventura di milioni di euro. Quindi questi soldi scompaiono così, vanno nelle tasche degli imprenditori, la Ventures dopo dice non possiamo fare più niente, dichiara fallimento, lo Stato non gli può fare niente perché sta in un paradiso fiscale, i soldi intanto sono entrati nelle tasche di questi qua e gli operai nella ex Embraco di Riva di Chieri, dopo aver subito col subentro della Ventures il licenziamento di una parte della manodopera, quelli che restano rimangono in cassa integrazione senza alcun progetto di riconversione. Intanto la Whirlpool se n'è andata, è bella e che lontana, e questo è che accade in tutte cioè in molte situazioni di riconversione. Certo. Il Stato rimane, diciamo, inane di fronte a tutto questo perché non vuole veramente ricostruire, come dire, un'azienda o comunque una modalità di intervento pubblico nell'economia che possa limitare la circolazione dei capitali, creare degli strumenti effettivi che possano impedire le delocalizzazioni e quindi, diciamo, far fronte alla minaccia delle multinazionali. Questi strumenti quali sono? Semplicemente che se te ne vai da uno stabilimento creando danni alla forza lavoro e al territorio, perché ogni stabilimento conta non solo i suoi lavoratori ma anche quelli dell'indotto locale, che nel caso della Whirlpool di Napoli per esempio stanno a Avellino, a Benevento, a Caserta eccetera, e fa fallire quindi decine di piccole aziende che lavorano per il colosso industriale. Quindi se te ne vai producendo questi danni, lo stabilimento viene requisito, punto. Cioè si prende senza indennizzo lo stabilimento e si crea un'industria di Stato che per l'appunto possa mantenere la produzione alta, l'occupazione e quindi dare anche uno slancio alla crescita, perché l'Italia è un paese in cui dal 2008 ad oggi la crescita reale, la crescita dell'economia non è mai veramente ripartita.